E infatti sono i nuovi candidati a diventare amministratori delegati, perché governando il digital per fare business, naturalmente sono quello che normalmente viene dopo l'attuale amministratore delegato. E dove ci si forma? Come può avvenire una formazione vera, concreta e veramente, diciamo, rinascimentale rispetto al futuro e rispetto anche a questo momento di emergenza? Magari si può approfittare per un cambiamento della propria professione? Sì, infatti è interessante il fatto che non sono necessariamente i giovani soltanto, magari sono persone anche di un'altra età. Dove ci si forma è naturalmente un problema, nel senso che la formazione classica tradizionale, cioè imparare cose dal punto di vista squisitamente teorico, non è più quello. Quello che ha senso fare è seguire dei massimi online open courses, quindi seguire le varie certificazioni dei vari soggetti che sono oggi gli attori di questo, sono i tool di questo cambiamento, quindi Google, HubSpot, Indeed, eBay, Shopify e vi dicendo. E dopo un minimo di formazione teorica, alla base delle certificazioni, che sono la maggior parte tutte gratuite, quindi questo è interessante, che questa educazione non ha un costo importante, quello che ha senso fare è entrare in bottega. Uno dei modelli è Guilds for CCU, che è un modello dove le persone seguono dei percorsi educativi di certificazione, ognuno seguendo il proprio percorso, quindi con una serie di moduli che ognuno compone a piacimento, avendo delle linee guida, una curation di percorso. Dopo aver fatto 3 mesi di questo percorso assolutamente gratuito per i singoli, i migliori, cioè è tutto certificato naturalmente, i risultati raggiunti, i migliori poi entrano in bottega. E in bottega fanno delle opere per una committenza reale, quindi ci sono aziende reali che danno dei progetti da fare e questi garzoni, questi digital tailor, coordinati da degli artisti di oggi, dei chief digital officer, però con 10 anni di esperienza. Certo, e in fondo è una novità, ma neanche tanto, perché nella tradizione si è sempre fatto così, nell'arte come nei mestieri si imparava non solo ovviamente studiando, ma con le mani, quindi pensando e imparando con le mani. Che cosa consiglia come competenze base? Bisogna partire dai primi livelli, insomma, di istruzione? Bisogna aggiornarsi quando si ha già una laurea? In realtà la cosa interessante è che non c'è bisogno di una forte competenza pregressa. Il garzone più giovane di cui evidenza all'interno del modello di Guilds for CCU ha 13 anni e il garzone più vecchio ha 67. Quindi è determinato dalla volontà del singolo di imparare una nuova lingua che si chiama digital, e quindi i nuovi strumenti non presuppongono chissà quale livello di competenze pregresse. Vero che la maggior parte dei corsi di questi mondi qua, quelli gratuiti, sono in lingua inglese, quindi magari la lingua potrebbe diventare per qualcuno un po' una barriera. È molto importante anche capire se ci sono delle indicazioni di formazione anche online e se questa vale per queste figure, e anche se online c'è una ricerca di queste figure, secondo la vostra esperienza, dove si possono trovare le offerte. In questo nuovo mondo, in realtà, quelli che percepiscono le loro certificazioni online hanno un valore più alto rispetto a quelli che lo fanno offline, cioè le persone, i responsabili di recruiting o le varie aziende che assumono più volentieri quelli che hanno fatto un proprio percorso di formazione a partire da strumenti soltanto online, o quantomeno con online la parte di education e poi con la parte appunto di prova in bottega, ma rispetto alle lauree. E infatti i vari Elon Musk, i vari Jeff Bezos hanno dichiarato che le loro aziende non assumono più laureati, ma non perché è un problema essere laureati, è perché in realtà gli attuali percorsi di laurea non hanno questi elementi che sono quelli ricercati dal mondo del lavoro di oggi. Ecco, voi che cosa fate per incentivare questi nuovi lavori? C'è anche, diciamo, un'organizzazione, un'associazione, anche un po' per scambiarsi le idee? Abbiamo creato una community di questi garzoni all'interno di guildsforcecu.com, dove questi possono educarsi, lavorare insieme in botteghe, eccetera. Abbiamo creato una community degli artigiani, gli artisti, con il movimento Digital Building Blocks, quindi dove ci sono una serie di manager che vogliono insieme andare verso il futuro, che naturalmente è un futuro dove il digitale permeerà tutte le funzioni, ma non trovano dei posti dove trovare quelli come loro. E quindi con queste community noi cerchiamo di abilitare la transizione al futuro digitale del mondo, perché la verità è che tanto ognuno andrà verso quella direzione lì, il problema è come farlo. L'appello, il consiglio, un orientamento da parte di chi ovviamente vede lontano, alla visione di un rinascimento, qual è? In realtà la cosa interessante è che il modello viene dal passato, cioè la Silicon Valley ha creato ricchezza, ci mancherebbe, ma il rinascimento ha creato molta più ricchezza rispetto al movimento della della rivoluzione digitale della Silicon Valley. Gli statuti delle gilde rinascimentali, che sono durati per 400 anni, è un modello molto più solido rispetto a quelli odierni. Questi modelli che nel passato hanno funzionato, li stiamo riprendendo, e quello che io dico è di non sviluppare competenze solo teoriche, bensì di mettere le mani in pasta, e non vedo perché nel digital dovrebbe essere diverso. È un po' il quadro del futuro, quello del rinascimento, ed è quello che va dipinto proprio con le proprie mani. La cosa bella è che con i nuovi strumenti, che sono molto più potenti rispetto a quelli che c'erano nel rinascimento, questo rinascimento di oggi è esponenziale, cioè la crescita che si riesce ad avere nelle proprie attività grazie a questi nuovi strumenti è 10 volte superiore rispetto a quelli dei competitor. E infatti ci sono, lo stiamo vedendo, aziende che stanno facendo dei risultati che sono incredibili. Vediamo quelle transizioni che oggi sono all'ordine del giorno nel mondo, ma che in realtà continuano ad essere incredibili per quelli che non hanno ancora le mani in pasta nel digital.